24, i gialli della storia. L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Democrazia, lavoro, sovranità popolare, diritti inviolabili, solidarietà, uguaglianza. Sono solo alcuni dei principi fondamentali alla base della Costituzione della Repubblica Italiana, la carta che fissa i diritti e i doveri dei cittadini e che regola l'organizzazione dello Stato, un vero e proprio patto collettivo che ha garantito la democrazia e la libertà dopo la dittatura e la guerra. Oggi la Costituzione ha 70 anni e il prossimo 4 dicembre gli italiani sono chiamati a votare per una sua riforma. Ma torniamo indietro. In quale clima è nato il nostro testo costituzionale? A Mix 24 ripercorriamo le tappe che portarono alla sua stesura, alla sua entrata in vigore il 1 gennaio del 48, guidati dal costituzionalista Paolo Caretti e dallo storico Giovanni Sabatucci. Gennaio 1948. Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. La firmano il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, e il presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini. La nascita della Costituzione italiana ha delle vicende che la precedono, che spiegano molto anche dei suoi contenuti. Quella all'alba del 1948 è un'Italia nuova, che la carta costituzionale fotografa. Con quella Costituzione l'Italia si dà una nuova carta di identità, un'identità inimmaginabile solo pochi anni prima. Fino all'avvento del fascismo, infatti, l'Italia ha un'altra Costituzione, lo Statuto Albertino. Una tipica Costituzione ottocentesca era stata concepita sul modello della Costituzione belga del 1831, è la tipica Costituzione di uno Stato liberale. Una carta completamente stravolta dal regime. Questa prima Costituzione italiana funziona e diciamo è sostanzialmente rispettata fino all'avvento del fascismo. Le leggi cosiddette fascistissime degli anni venti determinano mutamenti fondamentali nella struttura del vecchio Stato italiano. L'Italia che sta per entrare in guerra ha ancora un re e una regina, ma manda in galera chi ha opinioni diverse dall'unico partito legittimo. Non considera gli uomini tutti uguali, afferma che ci sono razze superiori, impedisce di esprimersi liberamente, non permette a nessuno di associarsi in partiti, non riconosce alle donne la stessa dignità degli uomini. Cambia completamente la forma di governo, si determina una, per legge un ruolo del capo del governo che contemporaneamente è il segretario del partito unico, del partito nazionale fascista, e si determina un cambiamento di regime. In ogni caso nessuno vota, non esistono più elezioni. Il regime disprezza la democrazia, ha istituito dei tribunali speciali che accusano e condannano sbrigativamente gli oppositori. Un tipo di regime che non ha più niente a che spartire con il regime parlamentare precedente e avvia ad un regime di tipo, come si dice tecnicamente, dittatoriale. Un regime dittatoriale che ha il mito della guerra come espressione di potenza e grandezza nei confronti di altri popoli e nazioni. La guerra fa a pezzi le strutture di quello Stato, sconvolge anche ovviamente, anche per il suo carattere distruttivo, le strutture, le gerarchie, i comportamenti sociali. Dopo l'armistizio, l'Italia è occupata in gran parte del territorio nazionale dalle truppe tedesche e anglo-americane e conosce la più terribile delle guerre, la guerra civile. Gli italiani si combattono tra loro. Da una parte i fascisti ancora a fianco dei tedeschi, dall'altra gli italiani antifascisti a fianco degli anglo-americani. Queste vicende hanno portato quasi subito all'emergere in Italia, durante ancora il conflitto bellico, dei partiti che fino ad allora avevano vissuto in clandestinità. Questi partiti, organizzati nel Comitato di Liberazione Nazionale, rappresentarono in quegli anni che precedono ancora la fine della guerra il primo nucleo di uno Stato democratico. Sono i partiti antifascisti a decidere che, a guerra finita, sarà un'assemblea eletta dal popolo a riscrivere le regole di convivenza del nuovo Stato. Il 2 giugno del 1946 gli italiani decidono con un referendum che la nuova Italia sarà una repubblica ed eleggono contemporaneamente i rappresentanti all'Assemblea Costituente. L'Assemblea scelse subito, appena insediata, di dar vita a una commissione che si chiamò la Commissione dei 75 dal numero dei suoi componenti, che aveva proprio il compito di elaborare quegli articoli che poi sarebbero stati discussi naturalmente in assemblea plenaria. All'assemblea si confrontano principalmente tre grandi tradizioni politiche che fanno capo ai tre maggiori partiti di massa. Dei tre partiti maggiori, due erano di orientamento socialista: il Partito Socialista, che allora si chiamava Partito Socialista di Unità Proletaria, e il Partito Comunista. E un altro, la Democrazia Cristiana, si ispirava invece ad altri valori e soprattutto si stava sempre più qualificando come il portatore principale, il contenitore principale dell'opinione moderata. I partiti, pur fortemente divisi dalle ideologie e dalle scelte di campo nel nuovo scenario della Guerra Fredda, sanno che dovranno scrivere assieme la carta fondamentale della Repubblica. Il 22 dicembre 1947 il testo della nuova Costituzione è approvato dal 90% dell'Assemblea Costituente. 139 articoli, i primi 12 tracciano l'architettura dello Stato definendo i principi fondamentali sui quali si regge il nostro ordinamento. Poi due grandi parti per regolare i diritti e i doveri del cittadino e l'organizzazione stessa della nostra Repubblica. E allora, pochi giorni dal referendum, vale la pena ripercorrere la nostra Costituzione, partendo proprio dai suoi articoli fondamentali. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Le due qualificazioni che si trovano al primo articolo, una repubblica democratica e fondata sul lavoro, indicano i tratti distintivi del tipo di repubblica che i costituenti avevano in mente. Innanzitutto una repubblica democratica, cioè che riflettesse nella sua parte organizzativa il principio democratico di base, cioè il principio della rappresentanza della volontà popolare. La sovranità appartiene al popolo. È l'abbandono definitivo di ogni principio di legittimazione di tipo trascendente. Il re esercita il suo potere in nome del popolo, ma per grazia di Dio, secondo il principio ereditario. La Repubblica invece si fonda su un principio completamente diverso, che è quello del rispetto della volontà popolare, della sovranità popolare. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. La Repubblica che i costituenti hanno inteso costruire è una Repubblica non qualunque, ma che si ispira ad alcuni principi fondamentali. Innanzitutto la tutela dei diritti, in secondo luogo l'imposizione di doveri di solidarietà economica e sociale. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Il lavoro era una parola chiave nella cultura dei costituenti e nella cultura dell'Italia di allora in generale. Il lavoro era ciò che in qualche modo giustificava, ciò su cui si fondava il riscatto delle masse popolari. Non era solo un obbligo, non era solo una maledizione il lavoro, era invece il canale attraverso cui si attuava il riscatto sociale. L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. Il fatto che si riconosca la Repubblica come repubblica democratica fondata sul lavoro chiarisce l'intento del Costituente di vedere il lavoro non soltanto come un valore individuale, cioè come strumento di promozione economica e sociale dell'individuo, ma come valore fondante della Repubblica, perché valorizzare e tutelare il lavoro nell'idea dei Costituenti era assicurare a tutti i cittadini la premessa per un esercizio effettivo dei diritti politici e sociali che la Costituzione riconosce. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero. La libertà di espressione è una delle libertà riconosciute dalla nostra Costituzione, e come anche la Corte Costituzionale ha affermato in tante sue sentenze, rappresenta un po' la cartina di tornasole del tasso di democraticità di un sistema. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La nostra Costituzione riconosce in modo più pieno la libertà di espressione, di manifestazione del pensiero, politica, culturale, religiosa, prevedendo un unico limite, che è quello del buon costume. Ma al di là di questo limite, che poi ha una portata molto ridotta, c'è una apertura e un intento del Costituente ad una tutela massima della libertà di manifestazione del pensiero. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Un altro principio fondamentale che è accolto nella nostra Costituzione all'articolo 11, che anch'esso si ispira alle vicende drammatiche che hanno portato all'approvazione della Costituzione, è il principio, potremmo definirlo pacifista, che si traduce nel rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e come mezzo di offesa alla libertà delle altre nazioni, degli altri popoli. L'Italia ripudia la guerra. Principio importante che ha il suo corollario nella seconda parte dell'articolo 11, dove addirittura l'Italia si impegna anche a limitazioni di sovranità a favore di organizzazioni internazionali che operino e abbiano come loro obiettivo principale quello di assicurare la pacifica convivenza tra i popoli. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. È questa disposizione che ha consentito all'Italia di chiedere di far parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'ONU, che è stata accolta, e attraverso l'adesione all'ONU l'Italia fa proprio il contenuto dello Statuto, della Carta delle Nazioni Unite, che prevede in certi casi l'uso della forza. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il principio di eguaglianza si trova non a caso all'articolo 3, quindi nei primi articoli della Costituzione repubblicana, e si trova in una duplice accezione. Quella tradizionale dell'eguaglianza in senso formale, cioè l'eguaglianza di tutti davanti alla legge. Lo Stato e in genere i pubblici poteri non si devono limitare ad una tutela passiva di sfere di autonomia privata riconosciute ai singoli, pensiamo alla libertà personale, alle libertà di domicilio, ma si devono preoccupare che tutti, nonostante le differenze di fatto esistono tra i componenti della società, possano esercitare effettivamente questi diritti. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Questo principio di parità tra tutte le confessioni religiose oggi assume una valenza particolare e particolarmente attuale, in ragione del fatto che la nostra società si sta trasformando in una società non solo multietnica ma anche multireligiosa.